una canzone ballabile, aprirò una bottiglia del mio spumante, metterò quel profumo palpabile e una luce che sia un po' invitante. Sarò sempre un po' abbronzato. No, non va bene così. Non si può proprio dirti di sì. Perché ci vuole l'amore, ci vuole che tutto ti parta da dei regali bellissimi e dei mazzi di rose da capogiro, comprerò la più bella automobile se le piace di farsi vedere in giro. No.